tante volte vorrei dirti amore mio. Certi giorni senza te mi sento vuoto dentro al cuore, mi manca l'aria, non riesco a respirare. Vorrei dirti che ti amo di più, vorrei darti tutti i baci che vuoi, ma perché non torna amore da me in quei giorni insieme a te, chiuso in camera noi due, per simulato di cazzate e di poesia. In quei giorni insieme a te c'è stato dell'amore saia, quindi che così non t'ho amata mai. Vorrei stringerti più forte che posso, vorrei perdermi nel tuo di mezzo, ancora con me. Andremo sempre più là, sognando il mondo in una, cantando al mare canzoni, sognando nuove emozioni, sempre sempre noi due, stati stretti e unici noi, come aria e fuoco io e te, ma non ci ripenso, non so stare senza te. Insieme a te, senza un'idea di dove andare, passare la noce, il tempo a ridere e giocare. Certi giorni insieme a te.